Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 23 gennaio 2015 raddoppia il commercio elettronico in Europa. Volumi raddoppiati in soli 3 anni, in anticipo sulla scadenza di fine 2015 fissata dalla Commissione europea. Nel vecchio continente, il commercio elettronico al dettaglio ha raggiunto il 6,8% del totale contro il 3,4% del 2012, con benefici rilevanti in termini di crescita dell'occupazione. Per ogni posto di lavoro perso nel settore tradizionale, ne sono stati creati 2,6 nuovi nel settore online. Il commercio e i servizi online rappresentano già, secondo l'esecutivo di Bruxelles, più del 20% della crescita e della creazione di occupazione netta in alcuni Stati membri, tra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito o la Svezia. Fin qui la notizia del 23 gennaio 2015. Ma come sapete, il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'azione promossa all'inizio di quest'anno dalla commissaria europea Nelly Kroes punta a sostenere l'andamento già molto buono del settore, come spiega Alessandro Perego, docente di gestione dei sistemi logistici e produttivi e di logistica integrata al Politecnico di Milano. L'obiettivo è estremamente credibile. Per raddoppiare nel 2015 basta crescere a tassi compresi tra il 15 e il 20%, che sono esattamente i tassi con cui sta crescendo l'e-commerce in Europa. In Italia in particolare è un po' di anni che l'e-commerce cresce a tassi maggiori del 20%, con l'eccezione dell'anno 2009. Bisogna sottolineare che il commercio elettronico, al di là di essere, diciamo così, un business per nuove aziende che operano esclusivamente online, è un canale importantissimo per la stragrande maggioranza delle altre imprese, in particolare delle imprese commerciali, il mondo del retail, ma anche delle imprese di produzione. I principali elementi che ostacolano dal mio punto di vista lo sviluppo dell'e-commerce in Europa e specificatamente in Italia è però una certa difficoltà nel tradurre in atto questo concetto, cioè non è banale fare e-commerce, soprattutto per aziende tradizionali che sono abituate a operare sui canali offline. Ecco, per queste imprese è importante iniziare il più presto possibile un percorso di apprendimento. Occorre rivedere i propri processi nella logica del e-commerce, sia i processi operativi che stanno nel back office, quindi ad esempio la logistica, la presentazione del catalogo, i processi amministrativi, il marketing e la comunicazione, sia i processi di relazione col consumatore. Il consumatore online è molto esigente da questo punto di vista, non è disposto ad aspettare molto prima di arrivare a un'informazione di valore. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.